Ben sintonizzati a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, un saluto particolare va da parte mia, anzi da parte nostra, a tutti coloro e a tutte coloro sono privati della loro libertà personale. Per chi vuole ascoltarci in modo vintage attraverso una radio o semplicemente se si trova in macchina, la modulazione di frequenza di questa radio sono gli 87.9 FM. Chi invece è moderno può ascoltarci in streaming andando sul sito www.ondarossa.info e cliccando sul pulsante ascolta la diretta. Oggi siamo romanticissimi, è vero o no? Sì, perché questo film è molto romantico e se una battuta del film dice beati gli smemorati perché avranno la meglio sui loro errori, io dico beati gli smemorati che se si rivedono questo film è come se lo rivedessero per la prima volta, perché Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tradotto malamente dalla distribuzione italiana con Se mi lasci ti cancello, è davvero una bella storia d'amore. La colonna sonora ci piaceva moltissimo e quindi la condividiamo con voi in questo grigio e freddo giovedì di novembre, sperando che possa riscaldare il vostro cuore e alleggerire la vostra anima. Stiamo ascoltando la colonna sonora di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Se mi lasci ti cancello in italiano. La colonna sonora di questo film è stata composta in parte e curata da un certo John Bryan, che è un statunitense, polistrumentista, cantante e produttore discografico. E la colonna sonora di questo film ha un'importante funzione, le sue musiche, ovvero di accompagnare le transizioni tra i ricordi e i flashback di Joel, il protagonista. Infatti in questo film ci sono un sacco di flashback. Però volevo dire una cosa, Ottavia, riguardo il romanticismo di questo film. In parte sì, sono d'accordo, però in parte anche prende un po' per il culo il romanticismo. Cioè, per dire, a me viene in mente la scena in cui Jim Carrey piange disperato perché è stato lasciato dalla coprotagonista e piange in macchina disperato, e non è così triste, non è neanche romantico, un po' anche, e diventa ironico a un certo punto. Infatti l'idea di cancellare un partner tramite un sistema computerizzato è fantascienza, però è anche ironico, fa ridere. Comunque, oltre alla musica di John Bryan abbiamo anche, ci sono gli sprazzi di jazz con Some Kind of Shuffle, oppure c'è musica indiana, che vi faremo ascoltare, addirittura del garage rock con i Willows. Comunque andiamo avanti. Thank you. E stiamo ascoltando la colonna sonora di Se mi lasci ti cancello, e questo era un brano indiano di Lata Mangeshkar, si chiama Wada Na Todd il brano, e Lata Mangeshkar è una delle più note e rispettanti cantanti di musica di film indiani, e che ha iniziato la carriera nel 42, lei è del 29, e praticamente ha fatto parte della storia di Bollywood per più di 6 decenni e mezzo, incidendo brani principalmente in lingua hindi per oltre 1000 film indiani. La sorella maggiore di altre 3 sorelle che cantano pure loro, in particolare la minore Asha Bhosle, molto famosa anche lei. E Mangeshkar Lata ha fatto parte anche del Guinness dei primati, perché è la cantante con il maggior numero di registrazioni al mondo, pari a 30.000 brani da solista, cioè quanti ne faceva al giorno? E duetti e canzoni, non so. Però varie fonti nel corso di anni non sostengono questa tesi, perché dicono che probabilmente molte canzoni le ha cantate la sorella minore. E vai a sapere la verità. Tutto in famiglia. Stavo ripensando a più di 1000 film, ti rendi conto quanti sono? Sono tanti. Però comunque gli indiani sono forti col cinema. Cioè Bollywood è l'industria cinematografica più potente al mondo, mica scherzano come produzioni, sì. Sì. E invece questo film è lo spunto è proprio fantascientifico e surreale, alla base proprio di una trama che Gondry e i suoi coautori Pierre Bismuth e Charlie Kaufman hanno elaborato in una sceneggiatura proprio sorprendente, che poi è stata ricompensata anche con nel 2004 con 2 candidature agli Oscar per la migliore attrice protagonista Kate Winslet e migliore sceneggiatura originale a Charlie Kaufman, Gondry e Pierre Bismuth. E la sfida dei due autori del film, dei 3 autori del film, era grossa, perché si racconta la storia in ordine cronologico ma all'incontrario, cioè invertendo i rapporti causa effetto, e il film finisce dove era cominciato, ed è la storia di Joel e Clementine, che dopo 2 anni di amore decidono di lasciarsi per non soffrire, e Clementine decide appunto per non soffrire di farsi estirpare la sezione della memoria relativa alla loro storia d'amore. Quando Joel lo scopre vuole fare lo stesso, ma in fondo è talmente innamorato di Clementine che non riesce a cancellare i suoi ricordi. colonna sonora di Se mi lasci ti cancello, e questi erano i Polyphonic Spree e il brano Light and Day, Reach for the Sun. I Polyphonic Spree sono un gruppo musicale composto da una ventina di elementi, fondato da Tim DeLauter, che ha anche scritto il brano che abbiamo appena ascoltato, e già membro Timothy DeLauter, già membro dei Tripping Daisy, e ha creato questo gruppo formato da una piccola orchestra flauto, tromba, horn, come si chiama? Corno. Corno, trombone, violini, violoncello, percussioni, piano, chitarra, basso. Insomma, una vera orchestra. Una vera orchestra. E in questo brano abbiamo sentito addirittura c'è una voce bianca, e il gruppo si è formato a Dallas nel 99 e ha uno stile definibile come rock sinfonico brechtiano, dato che si basa su strumenti tradizionali e anche sull'autoironia. Di solito i suoi componenti sono vestiti da toghe colorate. Una curiosità, vennero invitati da David Bowie al Meltdown Festival nel 2002. E la traduzione del titolo approvata dai distributori italiani, Se mi lasci ti cancello, coglie in pieno il contenuto del film, ma ne falsa totalmente lo spirito. Ne stavamo parlando prima con Davide, insomma, la mia visione è che sia un film romantico per Davide, invece questo non è così, ma è in parte ha anche ragione, perché il film è a metà tra un dramma e una commedia, e lo sceneggiatore e il regista hanno lavorato in perfetta sintonia e affiatamento, mettendo l'uno al servizio dell'altro per le loro capacità. Gondry è secondo me uno dei suoi film in cui lui è in miglior forma, perché non trascura niente, e le immagini sono perfette, evocano in modo perfetto l'immaginario che probabilmente era di Kaufman. Mi vengono in mente le immagini, non so, della pioggia nella stanza, o il letto sulla spiaggia. Beh, se questa non è poesia e romanticismo, non so come altro si può definire, David. C'è un altro contrasto che mi piace molto, è l'utilizzo di Jim Carrey, che di solito è un comico, invece in questo film, forse, non so se per la prima volta, ma insomma è la prima volta. Sì, per la prima volta. Un ruolo drammatico. E sì. Quindi... Beh, però qua era proprio intenso, proprio gli anni. Malinconico. Vabbè, ma non diciamo tutto adesso, sennò poi dopo come facciamo? Thank you. Questo era Jazz Old Style di Don Nelson, di cui purtroppo non abbiamo trovato molto. Bellissimo il brano, l'abbiamo messo, ma non abbiamo trovato molto su internet. Chiediamo a tutti gli ascoltatori di darci le notizie di Don Nelson. Ovviamente non è il Don Nelson allenatore di basket. E non è neanche un nome in codice per parlare di Don Lurio. No, ma invece voglio ancora sottolineare quanto è bello questo film per quanto riguarda le immagini, no? Che sono veramente suggestive, intense, visionarie e sono anche introspettive. Introspettive, e introspettiva è proprio sono proprio la recitazione di questi due attori che poi fanno parte, insomma, di un immaginario collettivo abbastanza così commerciale, ecco, no? Che in Twistlet per Titanic, Jim Carrey, insomma, tutto quello che conosce, tutto quello che conosciamo, a parte Truman Show, insomma, beh, comunque. Nel dare ragione a Woody Allen si può dire che un attore comico in un ruolo drammatico di solito non ha problemi, ma il contrario non sempre funziona, e invece con loro funziona benissimo, perché Jim Carrey è molto intenso accanto di Kate Winslet, che è veramente molto brava, e pensate che la sua interpretazione è stata inserita all'81esimo posto delle più belle performance della storia del cinema. Forse anche un po' esagerato, se quella vogliamo, di Kate, o di Jim Carrey? Di Kate. Ah. Sì, per questo film lei ha ricevuto una quantità di premi che non ha mai ricevuto in tutta la sua carriera. Ma è vero che hanno improvvisato molte cose? Sì, però questo ne parliamo dopo, non sono preparata. Change your heart, look around you, change your heart, and we'll astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gonna learn sometime. Everybody's gonna learn sometime. Everybody's gonna learn sometime. Change your heart, look around you. Change your heart, it will astound you. I need your loving. questo è il pezzo, direi, più bello della colonna sonora di oggi, cioè Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ovvero Se mi lasci, ti cancello. E il pezzo si chiama Everybody's Gonna Learn Something, composto originariamente da The Corgis, boh, però cantata e eseguita da Beck, questa bella versione. Questo brano ha un ruolo importante perché accompagna due celebri scene, cioè quando Clementine dice a Joel di essere un libro aperto e lamentandosi dei suoi silenzi, e nella scena in cui lei gli chiede di non lasciarla mai. E a proposito di Beck, vabbè, che dire, abbiamo già messo altri brani Beck precedentemente, comunque di Los Angeles, nasce negli anni 70, è figlio d'arte, suo padre è un musicista di bluegrass e sua madre è un'attrice nel giro della Factory di Andy Warhol, e si è trasferita a New York poco dopo il liceo, poi torna a LA negli anni 90. E di lui si dice che, oltre a essere appunto un bravo, fa musica di vari tipi, dal rock anche con influenze hip hop e così via, ma è anche molto ironico, direi, no? E per dire, un brano con cui è diventato famoso è MTV Makes Me Want to Smoke Crack, ovvero MTV mi fa venire voglia di fumare crack. Anche a me. Crack. Comunque, dopo, negli ultimi anni non ha fatto molto, poi è ritornato un album nel 2014, Morning Phase, un album meditativo, forse influenzato dalla sua contemporanea, purtroppo direi, adesione a schifo Scientology. Oh, questo brano di Beck ci porta all'ospite di questa settimana, che è il critico Franco Montini. Ci sei, Franco? Eccomi, buona serata a tutti. Come va? Bene, bene. Allora, Michel Gondry, abbiamo amato profondamente questo suo film. Gondry è un artista eclettico e anche completo, potrei dire, perché insomma è produttore, sceneggiatore, attore e regista, e viene poi soprattutto impegnato in videoclip e pubblicità, e questo anche nel suo stile si può vedere, giusto Franco? Ma direi soprattutto un artista originale, certamente difficile da catalogare, perché ha uno stile molto personale, dove la componente onirica è sempre molto, molto rilevante. È un regista che ama raccontare le storie soprattutto attraverso le immagini, sfuggendo così da narrazioni semplici, da narrazioni molto lineari. Quello che evidentemente interessa Gondry è quello di comunicare delle sensazioni, delle emozioni, e questo lo fa appunto soprattutto attraverso l'utilizzazione di scenografie, di effetti speciali, di suoni, di colori, di immagini, in una parola. Direi che Se mi lasci ti cancello forse è il suo film più riuscito, più interessante, davvero un film difficile da raccontare ma molto emozionante. Sì, come dicevi tu, probabilmente il suo risultato migliore c'era stato prima Human Nature, e poi dopo Se mi lasci ti cancello, L'arte del sogno, Gli acchiappa film, Mood Indigo, però secondo me Se mi lasci ti cancello rappresenta il suo apice a livello, sì, cinematografico. I film successivi sono perfino un po' troppo cervellotici, cioè questa sua inclinazione a raccontare per immagini lo porta appunto a situazioni, a storie, a effetti che richiedono, come dire, grande attenzione, che insomma non sono di facile lettura. E nel caso di Se mi lasci ti cancello invece la storia, per quanto appunto, come dicevo prima, tutt'altro che realistica, tutt'altro che lineare, però è, se vogliamo, un po' più comprensibile, e soprattutto si avvale di alcune interpretazioni davvero magistrali, perché Jim Carrey, che insomma di solito è considerato un comico scatenato, qui dà una prestazione molto interessante, e l'altra protagonista è una grande attrice come Kate Winslet. Oh, Se mi lasci ti cancello è datato in un anno in cui più in generale era un periodo in cui la nuovissima Hollywood produceva grandi risultati, e qui anche si può affermare probabilmente che Gondry si può abbinare a una ricerca estetica, a uno stile che può ricordare quello di Charlie Kaufman, Spike Jonze, David Russell, Wes Anderson. Di questo film è lo sceneggiatore, sì, sì. E quindi voglio dire la sua impronta, la sua mano si sente, forse appunto anche fra come dire gli elementi determinanti nella riuscita di questo film c'è anche una sceneggiatura che appunto è una sceneggiatura molto solida, molto curiosa, molto innovativa, e certamente questo film di Gondry si riallaccia molto al cinema di Kaufman, sia come sceneggiatore sia come regista, perché poi appunto essere John Malkovich, tanto per ricordare un film che in qualche modo è abbastanza simile a questo, nel senso che è un altro percorso mentale dentro proprio, come dire, l'intimità, il cervello del protagonista, come lo è un po' anche appunto questo film. Oh, è che ha creato un immaginario che, come dicevo prima, ha dato l'imprinting di un nuovo stile ad Hollywood. Io ci metterei anche, guarda, l'American Beauty di Sam Mendes, oltre a Wes Anderson e, come dicevo prima, anche David Russell. Insomma, in quegli anni Hollywood ha prodotto un immaginario vero e proprio. Assolutamente sì, ed è abbastanza curioso che questa esperienza sia nata in maniera, come dire, quasi contemporanea a tutti i registi, gli autori che tu hai citato, ma che poi si sia un po' fermata, nel senso tutti questi autori, da Gondry a Kaufman a Russell, sembravano gli autori destinati, come dire, a un percorso molto importante, a una crescita progressiva, mentre mi pare che le opere successive a questo periodo, se mi lasci ti cancello se non ricordo male, del 2004, insomma, sì. Negli anni successivi, poi tutte queste premesse, queste speranze, forse anche perché è un cinema molto difficile, molto inconsueto, non abbiano poi, come dire, proseguito, non abbiano dato i frutti che si potevano immaginare e intuire. Forse il più costante, quello che ha mantenuto anche un alto livello nei film successivi, è Wes Anderson. Sì, sono assolutamente d'accordo con te. È quello che in qualche modo ha saputo anche così rinnovarsi di film in film, toccare climi, atmosferi, perfino generi molto diversi fra loro. È quello che sicuramente poi ha mantenuto di più, ecco, le premesse che aveva fatto intravedere all'inizio. Senti, invece di Charlie Kaufman, che era, come hai ricordato giustamente, autore di questa sceneggiatura solida, ben costruita? Ma guarda, ripeto, anche lui poi ha fatto anche altri film interessanti. C'era, oddio, adesso poi i titoli uno se li dimentica, quel film con Philip l'arteriosclerosi è galoppante, insomma. Philip Seymour Hoffman. Esatto. Che era un altro film molto interessante, anche questo abbastanza legato a questo genere. Direi che nel caso di Kaufman forse si è espresso maggiormente come sceneggiatore che come regista, la sua scrittura sia certamente più interessante della messa in scena poi di alcuni suoi film, insomma. Franco, chiaramente Kaufman ha già collaborato con Gondry prima di Se mi lasci di cancello, con Human Nature, poi come dicevi tu ha firmato molti altri film, Confessione di una mente pericolosa, e poi è stato anche New York, era il titolo che non ci veniva, infatti, ecco. E poi insomma è stato anche regista, perché ha seguito la regia di un film che si chiama Sinek Doge, che non so se sia mai uscito in Italia, io non credo di averlo visto, né tantomeno aver visto dei trailer italiani, quindi forse non so, tu mi dici che è uscito? È una cosa anche questa stranissima, perché è un film di animazione che si era visto, se non ricordo male, a Venezia l'anno scorso, Anomalisa, che appunto, proprio perché è un film di animazione innanzitutto, colpiva perché lui lo ha diretto, quindi oltre che, lo ha prodotto, insomma. Beh, insomma, Il ladro di orchidee, comunque, insomma, un bravissimo autore, secondo me, di sceneggiature, e ha creato proprio un filone che è proprio questo dei film cosiddetti mentali, no? E forse tu dicevi, è strano che non ci sia stato un seguito a questo tipo di film. Io trovo che invece è una fortuna, perché sennò pensa che noia, no? Meno male che non si ripetono questi sceneggiatori e cercano di fare qualcosa di nuovo. Sì, forse è vero, nel senso che poi le cose più strane, nel momento in cui, come dire, si codificano in un genere, sì, perdono quella che è la caratteristica migliore, che è quella dell'originalità, appunto. Senti Franco, come d'usanza noi chiediamo agli ospiti di settimanali di questa trasmissione se c'è un titolo o più titoli la cui colonna sonora ti piacerebbe che fosse ricordata in un film di cui potremmo trattare nelle prossime puntate. Ma guarda, io per motivi anagrafici sono legato, come dire, soprattutto alla musica degli anni 60, e quindi non lo so, ho goduto moltissimo quei film che appunto hanno come tema conduttore quella musica lì. Primo titolo che mi viene in mente, forse la cosa è molto banale, Il laureato, c'era una splendida canzone di Simon e Garfunkel che era il tema conduttore del film, sì, era sì, Mrs. Sì. Robinson, nota, notissima, ma insomma fa sempre, almeno a me fa sempre molto piacere riascoltarla. Bene, allora io ti ringrazio Franco, speriamo magari di risentirci in una delle prossime puntate. Senz'altro. E allora buon ascolto. Un abbraccio. E buon proseguimento. Ciao. Arrivederci, ciao a tutti. Dei brevi stacchi che dicevamo prima della colonna sonora di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sempre composto da John Bryan, in questo caso è un pianoforte molto bello. drinks the taddy. The tide of you. E questa è la reprise del piccolo brano del pianoforte che vi ho fatto ascoltare prima, e questa si chiama Strings That Tie to You, sempre di John Bryant, che ha curato questa colonna sonora. E Michel Gondry è proprio un artigiano del cinema, conosce molto bene la tecnica della regia, e forse la conosce così bene perché viene dalla regia dei videoclip, e lui ne ha fatti veramente tanti, non so, soltanto per citarne qualcuno: Lenny Kravitz, Elena Grace Vert, Terence Red D'Arby, Bjork, Sinead O'Connor, i Rolling Stones, i Massive Attack, i Foo Fighters, i Daft Punk, Sheryl Crow, Nene Cherry, Chemical Brothers, i Radiohead, tutti, insomma, lui. Praticamente tutti lui, ed è un artigiano, volevo sottolineare questo, nel senso che per fare un film poi si può fare anche in modo molto semplice, seguendo delle tecniche di regia elementari, che poi non sono elementari, ma insomma sono le tecniche di regia, quelle consolidate, quelle solite. Lui invece trova delle escamotage per girare le scene e per rappresentarle, per esempio usa degli effetti speciali molto artigianali che fanno proprio immergere chi guarda il film in un'atmosfera surreale, giocando con i piani sequenza che così si muovono passando dal passato, dal presente, come in questo film, no? E in cui si evoca il tempo, la memoria e l'instabilità di questi pensieri. E usa sempre delle cineprese, delle telecamere vecchio stile, vintage, per rendere questa immagine così fiabesca, e grazie anche a un'edizione che poi è ricca di trucchi e di effetti digitali che sono molto limitati, ecco. E poi fa delle cose assurde, tipo, non so, io ho trovato su internet che lui usa delle cuffie per parlare con tutti i suoi cameraman che sono sparsi all'interno della scena, così gli attori si possono muovere liberamente sulla scena senza seguire il copione, e quindi lui può suggerire ai cameraman come spostarsi, come muovere, come fossero in TV. Beh, non proprio come fossero in TV, come un assetto teatrale, però ripreso con dell'estetica, ma insomma è abbastanza interessante come lui gira. E inoltre c'è in lui, nei suoi film, è fissato con l'improvvisazione. Infatti spesso le scene venivano girate con più macchine da presa, in modo che gli attori potessero spostarsi, come vi ho detto. Oppure, per esempio, quando Mark Ruffalo, nella scena in cui Stan e Mary Kirsten Dunst ballano mezzi nudi sopra l'incosciente Joel, è totalmente improvvisata. Oppure la scena del circo per strada, il circo stava passando e quindi lui ha fatto spostare tutta la troupe per girare questa scena. Oppure quando per esempio, per rendere più realistica la scena in cui Stan spaventa Mary, il regista gli chiede di spostarsi ogni volta in un nascondiglio diverso per rendere più efficace lo spavento della Dust. Hai parlato della scena dove ballano nudi scatenate? Eccoci qua. Sky is fine, insecure with a tendency line. E questo era il garage rock dei Willows con il brano Something. I Willows è un gruppo nato nel 2002, guidato da Richie James March. Il loro sound passa dal garage all'acid music psichedelica a suoni melodici inframmezzati da influenze country blues. Invece per quanto riguarda questo sceneggiatore Charlie Kaufman, che secondo me è veramente un genio, un intellettuale proprio del cinema. E tra l'altro ho letto che una delle persone più influenti a Hollywood mi ha fatto ridere questa cosa. Beh, insomma, lui dice di se stesso: l'abitudine per uno scrittore è di consegnare una sceneggiatura e poi scomparire. Questo non fa per me. Io voglio essere coinvolto dall'inizio alla fine, e questi registi, parlando di Gondry e Jones, lo sanno e lo rispettano. Do. Everybody's watching you. E questo era il noto e storico gruppo Electric Light Orchestra, e questo brano che abbiamo ascoltato, Mr. Blue Sky, fa parte del settimo album di questa band rock, ovvero l'album Out of the Blue del 77, scritto e prodotto dal frontman Jeff Lynne. E questo pezzo è considerato Beatlesiano per il suo sound, ovviamente molto simile, a detta pure degli autori, al sound dei Beatles. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Io vi do le coordinate per sottoscrivere alla radio, che ha bisogno del vostro sostegno per continuare a trasmettere. Il conto corrente postale è 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Vosci 56 00185, Roma. Ma potete dare un contributo anche con il sito, andando sul sito www.ondarossa.info, cliccando sul pulsante sostieni. Grazie Fede, quindi fatelo, è importante. Se amate questa radio e volete che continui a trasmettere, sottoscrivete e date un vostro contributo, non è importante quanto esso sia, ma che comunque ci sia. Siamo ai saluti, a giovedì prossimo sempre dalle 15 alle 16. L'indirizzo di posta elettronica è tracce di cinema@ondarossa.info. David, con cosa chiudiamo? E chiudiamo con un altro brano dei Polyphonic 3, It's the Sun.